Questo è un primo passo per un forte impegno europeo alla costruzione di tutta la struttura amministrativa e civile del Kosovo.